Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 12 minuti, nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi ci occupiamo di inflazione, ma inflazione riferita a un aspetto specifico, al carrello della spesa, e quindi analizzeremo l'aumento dei prezzi da una parte e anche il calo della domanda, perché anche di questo dobbiamo parlare ed è un dato che ci riferiscono e ci riportano le cronache di tutti i giorni. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, raccontateci il vostro quotidiano e quindi come e se sono cambiate le vostre abitudini della spesa di tutti i giorni, se comprate cose diverse, se avete registrato aumenti o decrementi, anche speriamo in qualche caso, dei prezzi. E noi invece affronteremo l'argomento di oggi, come sempre aiutati e supportati dai nostri esperti che sono già tutti collegati telefonicamente con noi, e quindi vado rapidamente a salutarli. Buongiorno a Pietro Giordano, segretario generale di Adiconsum. Buongiorno. Buongiorno a Giuseppe Cornacchia, responsabile del Dipartimento Economico della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, ben ritrovato. Buongiorno, grazie. E poi saluto Giampaolo Angelotti, presidente della Federazione Italiana Esercenti Alimentaristi, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Prima però di andare a vedere approfondire l'argomento di oggi, andiamo velocemente sui mercati, perché oggi è un'altra giornata positiva, quantomeno contrassegnata dal segno più fino a questo momento, anche se i mercati non sono riusciti proprio ad affondare bene. Quindi Parigi guadagna uno 0,25% ed è quella che in questo momento rallenta di più rispetto alle altre. Francoforte guadagna uno 0,75%, Londra 0,35%, a Milano il FTSE MIB e FTSE All Share sono in progresso di uno 0,7% circa. Sicuramente l'Europa sconta in qualche modo la decisione di Finlandia e Olanda di non appoggiare l'acquisto sul mercato secondario da parte del Fondo Salva Stati dei titoli di Stato, ma ricordiamo che questo no non ha potere di veto, perché in caso di urgenze, in caso di crisi, le decisioni non vanno prese all'unanimità ma con una maggioranza qualificata dell'85%. E comunque sia, questa mattina il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso ci ha tenuto a sottolineare che nel vertice dello scorso weekend la decisione dell'acquisto di titoli di Stato in funzione antispeculazione è stata appoggiata da tutti e 27 i paesi membri. Lo stesso Barroso questa mattina comunque ha detto che la situazione è grave, c'è ancora moltissimo da fare, le manipolazioni dei mercati continuano e vanno fermate. Ricordiamo anche che l'Europa è scossa da un'altra bufera, che è quella della manipolazione dei tassi interbancari, una manipolazione che è costata la testa al presidente e all'amministratore delegato di Barclays, ma sarebbero implicate anche altre banche. E comunque sì, e questo è un dato che arriva anche dalla buona chiusura dei listini asiatici, sicuramente le borse scommettono su un intervento delle banche centrali, un intervento a sostegno della crescita e quindi un intervento di politica monetaria. Giovedì si riunisce la Banca Centrale Europea, si attende una sforbiciata sul costo del denaro, che comunque è molto basso attualmente all'1%, ricordiamo, per quel che riguarda l'Europa. Sul fronte dei cambi, l'euro viene scambiato 1,2590 sul dollaro. Andiamo a vedere anche per quel che riguarda il differenziale BTP Bund, non ci sono eccessive tensioni oggi, 416 punti base lo spread in questo momento. E allora noi con questo esauriamo la nostra parentesi dedicata ai mercati, ci tuffiamo nell'argomento di oggi, che è appunto il nostro carrello della spesa. Analizzeremo i prezzi da una parte e anche l'andamento della domanda dall'altra, la nostra scheda. Con l'estate aumentano le temperature e purtroppo insieme all'asticella del termometro sale anche quella dei prezzi e del costo della vita. Questo almeno è ciò che emerge dalle prime stime dell'Istat sull'inflazione nel mese di giugno, che registrano un dato in crescita al 3,3%, con un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 3,3% su base annua. Il gradino non è molto alto rispetto al mese di maggio, quando si registrava un 3,2%. Cambiano però le proporzioni relative alle singole voci e si fa particolarmente evidente il rincaro dei prezzi dei generi alimentari. Il dato dell'inflazione relativa ai prodotti classificati come acquistati con più frequenza arriva al 4,4%, in salita rispetto al 4,2% di maggio. Nello specifico, il carrello della spesa registra un aumento dell'inflazione dello 0,8% su maggio e un tasso di crescita annuo del 2,8%. Le cifre sono molto preoccupanti, stando alle dichiarazioni delle associazioni dei consumatori. In base a questi dati, secondo Codacons, una famiglia di tre persone spenderà 594 euro in più all'anno. Più caute le associazioni dei commercianti, che parlano di aumenti dei prezzi minimi o attribuibili a normali ritocchi stagionali, mentre i produttori lamentano che nelle campagne i prezzi crollano a picco. Una cosa è certa, i rincari obbligano le famiglie a fare scelte diverse e a modificare le proprie abitudini. Si acquistano prodotti diversi o quantità inferiori, si confrontano i prezzi con più attenzione, si riducono gli sprechi. Le 12:18 minuti, 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Raccontateci le vostre esperienze quotidiane di spesa. Io subito vorrei partire con un sms che è anche un po' una provocazione di un ascoltatore, visto che abbiamo detto che dovremmo tenere insieme due aspetti, sia i prezzi che il calo della domanda. E allora ci scrive Damiano da Roma: ma per legge di mercato, con un calo del 25% di vendite delle auto, quando queste caleranno di prezzo? Che sicuramente non è un bene primario l'auto, ma ormai è comunque un bene, diciamo, che potremmo forse definire necessario, anche se in questo tempo di crisi davvero si è ridotta al minimo la nostra lista dei beni necessari. Allora Damiano, io posso dirti solo che oggi, proprio a questo proposito, invece di calare i prezzi, Peugeot Citroën ha annunciato un taglio della propria forza lavoro tra gli 8.000 e i 10.000 dipendenti in Francia, che è il 10% circa dei lavoratori francesi del gruppo automobilistico. Chissà quando caleranno di prezzo e se sarà possibile assistere a un calo di prezzo per quel che riguarda le auto. Ma veniamo a noi e invece agli alimenti, quindi ai beni proprio veramente di prima necessità, perché anche in tempo di crisi non è che possiamo smettere di mangiare, è una cosa che non è possibile, non è prevedibile. Pietro Giordano, io vorrei partire proprio da lei, dal segretario generale di Adiconsum, perché appunto quello di giugno, anche se è una stima provvisoria, appunto prevede, ci fa capire che i prezzi sono aumentati. Forse avevamo assistito a degli aumenti anche nel mese precedente per quel che riguarda il nostro paniere, e contemporaneamente però sicuramente la domanda si è modificata, perché in qualche modo bisogna far fronte a questi aumenti. Sì, si è modificata profondamente. Difatti c'è un calo nel settore alimentare, che paradossalmente anche vecchie norme e regole economiche vengono in qualche modo negate. Un tempo si diceva che quando c'è una situazione di crisi il settore alimentare poi alla fine era quello stabile, addirittura in crescita. Invece per la prima volta in qualche modo c'è un dato negativo molto pesante nel settore alimentare, siamo a 6 punti percentuali in meno, e nel non alimentare siamo a 7 punti percentuali in meno. Cioè, questo dimostra che in un periodo di crisi come quella attuale, che poi è una crisi di sistema, non solo una crisi economica, i consumatori modificano profondamente i loro modi di consumare. Uno, risparmiando, e quindi c'è più sobrietà. Due, perché lo sono costretti. Non dimentichiamo che in questo paese esistono più di 8 milioni di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà. Non dimentichiamo che lo stesso governo dichiara che 28 milioni di cittadini sono colpiti da questa crisi in questo momento, in un modo o nell'altro. Quindi c'è una profonda modifica e quindi maggiore attenzione nell'acquisto questo probabilmente è un bene, come ogni periodo di crisi. Certo. Ci sono i lati positivi, non c'è più un consumo sfrenato, però indubbiamente minori consumi, perché siamo tornati ormai agli anni 70 in percentuale di consumi, minori consumi significano minore richiesta di beni e servizi, minore richiesta di beni e servizi significa minore chiusura di aziende, quindi disoccupazione, certo. Quindi meno reddito disponibile e di nuovo meno consumi, è un cane che si morde la coda, ecco perché sono assolutamente necessario un intervento che rilanci l'economia, se no siamo in una situazione che già attualmente di recessione rischiamo grosso, perché se non rilanciamo l'economia e quindi anche i consumi diventa pericoloso per l'intero paese e reggere una situazione pesantissima a livello europeo e internazionale. Gianpaolo Angelotti, sfatiamo un po' questa diceria che ci vuole una contrapposizione, no? Tra voi che siete gli esercenti, in questo caso gli alimentaristi, e chi invece è dall'altra parte, sia il consumatore sia il produttore, perché poi in fondo questa situazione anche per voi crea dei notevoli danni, perché se non si consuma per voi è un danno non indifferente. E poi volevo capire meglio, perché prima parlandoci al telefono, prima di entrare in trasmissione, lei mi diceva: abbiamo fatto anche noi delle ricerche, degli studi sulla tipologia dei consumatori, e qui ci sono delle diversità che si sono create nel corso di questi mesi tra chi non riesce ad esempio ad arrivare a fine mese e anche tutta un'altra fascia che ha modificato le proprie abitudini. Ma gli studi ne abbiamo fatti tanti, diciamo che a quello a cui lei si riferisce è... diciamo così, quando si parla di consumatore è un termine un po' generico, ci sono vari tipi di consumatori. Però volendo fare una divisione per fasce, diciamo che, quindi lo confermava già anche Giordano, che tra l'altro io saluto perché ci conosciamo, ci siamo trovati tante volte anche in televisione da Di Pietro, diciamo che almeno un 40% degli italiani, in questo delle famiglie italiane, in questo momento sta proprio soffrendo per arrivare a fine mese. Certo. E questo, se mi permette, è un dato preoccupante, perché al di là delle divisioni che poi dopo, se vuole, poi le tocchiamo anche dal punto sì. di vista che io sono commerciante, consumatore, vedi questo passo, ma come italiano mi sento preoccupato per quella parte di gente che non riesce ad arrivare. Io sono un commerciante anch'io e le posso confermare che sta tornando un po' di moda il vecchio libretto di una volta. Quindi lei lo tocca proprio con mano tutti i giorni? Certamente che sì. Di là delle richieste, sempre che ci possono essere di aiuti o meno aiuti, ecco, mentre invece abbiamo un 40%, un 35% della popolazione, in questo caso si è riferito alle famiglie, che non riesce più a mantenere lo status quo che manteneva ante crisi, per cui anche, soprattutto questi hanno cominciato a tagliare, quindi Giordano l'ha riconfermato anche lui, per quello, un nuovo modo di vivere la vita, un nuovo modo di reinventarsi la cucina, un nuovo modo addirittura di come guidare l'auto. Certo. Mentre invece c'è grosso modo un 25% degli italiani che la crisi proprio non la sente per niente, perché poi uno si domanda: ma dov'è questa crisi, no? Se magari dovessimo citare il signor B, dice: ma ci sono ristoranti pieni. No, non è così. Mm-mm. Magari a fine settimana, ma lungo la settimana i ristoranti sono assolutamente vuoti, così come sono vuote le discoteche, così come sono vuoti gli stabilimenti balneari, così come a luglio sono molto misurate quelle che sono le prenotazioni degli alberghi. Certo. Così come. Quindi, voglio dire, io vendo carne, però le posso garantire che in questo momento, se dovessimo vedere quelli che sono i consumi riferiti, adesso questi che noi stiamo citando sono quelli riferiti a gennaio, febbraio, marzo, aprile. Sì. Le posso garantire che per la carne, se andiamo oltre aprile, quindi maggio, giugno, qui abbiamo un calo che va ben oltre i dati. Beh, poi non certo. voglio essere, come dire, quello che prende la piazza, quindi io mi fermo alla sua domanda, se no, se vuole vado anche avanti, non è un problema. Insomma, no, beh, ecco. Poi sicuramente tornerò a darle la parola, però per il momento la fermo perché c'è un ascoltatore in linea, Roberto da Parma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ci dica. Grazie per avermi richiamato. Senti, io volevo solamente chiedere, a fronte di piccole esperienze successe sul fronte della grande distribuzione, mi è capitato di entrare in punti vendita, appunto, posso anche citare e fare il nome? Ma no, non c'è bisogno, comunque, c'è bisogno. Perché tanto comunque, il concetto mi sembra che si parli da solo. Io sono entrato in un paio di situazioni dove, a fronte di proclami di abbassamento dei prezzi e tutto il resto, io mi sono ritrovato alcune tipologie, magari non fondamentali, sì. Un aumento anche del 15-20%. E chiedevo, se esistevano strumenti, associazioni, possibili, perché poi mi sembra un po' ridicolo perciò avere campagne pubblicitarie che mi dicono alcune cose, io entro in punto vendita e già così con un banalmente sì. A livello di memoria mi ritrovo poi alcune tipologie non elencate in una piccola ristretta cerchia di prodotti indicati da grande distribuzione che poi vengono addirittura smisuratamente voglio dire aumentati. Il secondo invece fatto terribile è relativo a una grande cooperativa di distribuzione italiana, sì. La più grande, dove io ho mia madre con una patologia conclamata di Alzheimer, dove ho potuto fare una normale tessera di affiliazione a questa cooperativa, dove vengono richiesti 25 euro sì. per sì. avere la tessera che sì. permette alcuni sconti tutti sì. altri, e a fronte e viene fatta normalmente, perciò nel momento in cui io però, vista l'impossibilità di continuare per mia madre ad avere usufruire sì. della possibilità di queste cose, mi sono stati richiesti certificati medici e indagini per poter riavere indietro la quota associativa, e questo è un aspetto relativo poi a una persona che già all'inizio, nel momento in cui era stata fatta. Allora, Roberto da Parma, io direi di rispondere alla prima parte della sua domanda, non perché noi vogliamo eludere la seconda, ma perché dovremmo avere la controparte e non mi sembra corretto rispondere senza come dire, avere anche poi la voce degli interessati al microfono. Chiedo velocemente a Pietro Giordano come si possono difendere i consumatori nel momento in cui vengono attirati e poi si ritrovano con dei prezzi che sono un po' fuori misura, diciamo così. Ma è facilissimo, nel senso che esiste il codice del consumo che prevede la pubblicità ingannevole. Basta segnalare un'associazione come Adiconsum o addirittura direttamente all'antitrust, e quella catena di supermercati, ora non so di che, in cosa si trattava, probabilmente ipermercati, verrà colpita con delle multe che arrivano, che sono anche pesanti, e però bisogna anche non solo fare un'email, ma produrre le prove, che possono essere anche prove di tipo fotografico, oramai la macchina fotografica certo. ce l'abbiamo sul cellulare, quindi non è un grande problema. È piuttosto facile. Certo. È molto facile, quindi si avvia l'indagine e l'antitrust, devo dire che in casi reali colpisce anche duro. Voglio leggervi un sms perché anche questo arriva nel momento in cui parliamo di crisi e di quanto incide sui nostri consumi, i consumi alimentari che sono quindi primari, non comprimibili, altro che non arrivare a fine mese, quasi sempre non si arriva neanche alla terza di settimana. Per chi è sotto la soglia di povertà, ma di molto, spesso si fa anche la fame. Non sono solo di colore questi sms, sono veri, sono davvero, ci danno proprio la misura di quello che sta succedendo nel paese. E poi di norma, se andate a fare la spesa personalmente anche al supermercato, vi rendete conto di come siano cambiate proprio le abitudini delle persone. Matteo da Verona, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Ci dica. Io volevo portare la mia testimonianza come consumatore diretto. Sì. Ecco, ho riscoperto da qualche mese anche un certo piacere nell'accompagnare la mia ragazza a fare la spesa il sabato pomeriggio. Di solito io mi limito a spingere il carrello mentre lei sceglie i prodotti da metterci dentro, e noto, mi capita di osservare anche le altre persone che mi passano a fianco certo. Nel loro comportamento. E ho notato che poi questo mi è stato anche avvallato da un carissimo amico che è anche direttore di un supermercato, il quale ho notato poi che il consumo dei prodotti alimentari si è limitato molto in tutti quei prodotti che io chiamo superficiali o in più, tipo patatine, tipo bibite, tipo dolciumi, mentre per quanto riguarda il consumo di carne, latticini sì. e verdura e frutta, ho notato che la gente è molto attenta e comunque sia all'interno del carrello quei prodotti di primaria importanza per l'alimentazione quotidiana sono sempre ben presenti, mentre tutto quello che è in più invece no. Ho notato un'altra cosa, che nei reparti dei supermercati che sono destinati a tutti quegli alimenti un po' particolari per chi è intollerante alimentare o altro, lì c'è una crescente affluenza. E, dunque, la mia perplessità è proprio legata al fatto di dire sì, è vero, c'è questa crisi nei consumi e quant'altro, però c'è anche un comportamento, mi sembra di vedere, dove al di là dell'attenzione al prezzo, alla qualità del prodotto e quant'altro, una fascia di mercato si sta spostando verso tutti questi prodotti che comunque sì, economicamente costano di più, ad esempio un sacchetto o una scatola di pasta per celiaci costa molto di più rispetto a un sacchetto di pasta normale. Ho notato che molte persone si stanno orientando anche lì. Questo ovviamente noi non possiamo sapere quali siano poi le necessità specifiche delle persone, perché ci sono esigenze anche mediche da rispettare. Però la prima parte dell'intervento del signor Matteo mi sembra interessante, perché proprio su questo vorrei far intervenire Giuseppe Cornacchia, perché invece da lui vorrei capire se secondo voi, quindi che proprio avete il polso di chi consuma frutta e verdura, se invece i consumi sono realmente calati, se a voi risulta che siano davvero calati i consumi. I consumi sono sicuramente calati e questo calo dipende sicuramente dal reddito, per cui c'è questa fascia della al di sotto della povertà e le cose sono state già dette. Però noi notiamo negli altri, diciamo, due comportamenti. Uno secondo me è positivo e si riferisce a quello che diceva anche l'ascoltatore, il signor Matteo, cioè c'è una maggiore attenzione agli sprechi e questo è positivo in generale. Certo. Però c'è anche un aspetto negativo, e in questo non condivido tantissimo quello che diceva l'ascoltatore Matteo. Nella maggior parte noi notiamo, nella maggior parte dei cittadini italiani, quelli non nella fascia di povertà, c'è una minore attenzione alla qualità. Una volta era un terzo per la popolazione che sceglieva soltanto in base al prezzo, adesso sono due terzi degli italiani che scelgono soltanto in base al prezzo, senza attenzione alla qualità, alla freschezza, alla stagionalità, alla naturalità e quindi anche al benessere. E questo è un elemento negativo e preoccupante per noi, che invece come produttori italiani abbiamo sulla qualità il nostro elemento di competitività. Assolutamente. Si ricollega al discorso generale. Certo. Quindi sono presenti tutte e due le cose. C'è un terzo ragionamento, a mio avviso pure, da fare, che di fronte alla crisi, qui occorrerebbe anche una certa educazione alimentare, cioè non è vero che scende tutto in maniera tutti i consumi stanno calando, però rimane la quota che noi dedichiamo all'agroalimentare, quindi che è più importante per il nostro benessere, rimane molto bassa, cioè il consumatore stringe molto la cinghia dell'agroalimentare rispetto ad altri beni non altrettanto primari, diciamo così. Ecco. Spesso potremmo rinunciare a una telefonata in più, a un qualcosa e non stare troppo attenti all'alimentare, ma questo è un discorso a parte. Senta, dottor Cornacchia, però forse questo lo possiamo anche riallacciare al discorso che nell'ultimo mese, ad esempio, il costo della frutta è risultato in rialzo. Ora, poi Angelotti ci dirà che magari è solo una cosa legata alla stagionalità, passato il mese di giugno, questo non sarà un dato che dimenticheremo velocemente. Però io invece da lei volevo capire, visto che per i produttori sta diventando un vero e proprio problema anche quanto viene pagato a loro, il prodotto, che sono prezzi in discesa e rispetto a quelli che poi troviamo sugli scaffali, che sono in rialzo, diventa una forbice difficile da comprendere per il consumatore. Assolutamente sì. Noi abbiamo verificato che per 100 euro che spende il consumatore finale sull'agroalimentare, anche sull'ortofrutta in particolare, all'agricoltore, cioè alla produzione primaria, vanno meno del 16-18% della quota di valore complessivo. E questa quota si riduce, nonostante al consumatore finale aumentano i prezzi, questo per il costo dei servizi fondamentalmente, non per il costo della materia prima, che invece si riduce o si mantiene tale quale. Noi abbiamo avuto in questi mesi, proprio per rimanere sulla concretezza, un forte calo nel settore delle fragole, mentre il settore della frusca e della frutta estiva in questo momento non ha lo stesso calo, ma si mantiene agli stessi prezzi dell'anno scorso, anche qualcosa in meno in certi comparti. Noi siamo così fermi, non c'è per noi un aumento. Temiamo adesso con l'arrivo delle pesche delle nettarine anche dei cali, però sulle albicocche, per esempio, sulle ciliegie, i prezzi si sono tenuti ai valori dell'anno scorso. Non abbiamo avuto cali né aumenti, ecco, questo in generale. Allora, mentre in altri settori, come negli ortaggi e nelle fragole, ci sono stati addirittura dei forti cali rispetto all'anno scorso e agli anni passati. Ma guardi, io le posso riportare, vabbè, anch'io faccio la spesa come tutti, quindi diciamo che so anche guardare e rendermi conto della situazione. Sulle fragole devo dire che anche io come consumatrice ho notato dei cali, almeno nel mese di maggio, nella prima quindicina di giugno, poi i prezzi sono leggermente risaliti. Però io volevo capire a questo punto, intanto volevo una risposta dal dottor Angelotti, perché poi qui venite chiamati in causa direttamente come esercenti, visto che c'è questa disparità, questa forbice che si allarga tra la produzione, i prezzi poi alla produzione e poi quello che ritroviamo sugli scaffali. E volevo capire anche, quindi facendo un passo ulteriore, se ci sono delle modalità nuove di come dire, confrontarsi con chi produce, quindi trovare delle soluzioni che siano le migliori per i consumatori e anche per l'indotto, sia per chi produce sia per chi poi vende, perché poi alla fin fine siamo tutti più o meno, anche se da punti diversi, ma siamo tutti sulla stessa barca. Vabbè, mi hai fatto più di una domanda, sì. Poi mi costringe a stringere per via del tempo, ecco, diciamo, a parte che per rispondere all'ultima le posso dire che non è che in una situazione di questo genere noi ci faccia piacere. Eh no, certo. Per quanto riguarda la Confesercenti le posso dire a cuore aperto che l'agricoltura italiana ci sta molto a cuore tanto quanto i consumatori. Un'agricoltura forte in un paese forte vuol dire già avere la sicurezza di non dover subire quelle che sono le influenze e le speculazioni del mondo internazionale sull'alimentare, che è un discorso a parte, vi consiglio di farlo qualche giorno in una trasmissione, perché le maniglie del potere su certe cose non sono soltanto sul petrolio, ma anche sul grano, sul caffè, sì, eccetera, certo, eccetera. Per cui, detto questo, che comunque è un invito, non dico, le cito soltanto che negli ultimi tempi abbiamo cambiato 4 ministri dell'agricoltura in 8 mesi, quindi è ben difficile poter fare, quindi Cornacchia me ne può dare atto, poter buttare giù dei piani per quanto riguarda l'agricoltura. Però detto questo, sì, parliamo del contingente, le posso dire che comunque bisogna tenere conto, secondo noi sono due i fattori, perché parlare di speculazioni, se è di questo che vogliamo parlare, io lo escludo a priori. La crisi che c'è in questo momento non porta a speculare, anzi, porta a cercare di vendere per mantenere quelli che sono i costi, e ricordiamoci, i costi sono fissi. E vanno a incidere in percentuale sul bilancio, sul venduto, sul fatturato in proporzione a ciò che si vende. In questo momento si vende di meno, quindi i costi sono in aumento. Ma al di là di questo sono due le voci che hanno inciso in questo caso, se ci riferiamo all'aumento dei prezzi dell'ultimo mese. Uno sono i risultati delle nevicate di quest'inverno. Sì. Perché io ho partecipato personalmente, anche diversi ministeri si era preoccupato dell'agricoltura, appunto che ci fossero state delle speculazioni in seguito alla neve. Non ce ne sono state, ma comunque c'è da sempre la riserva di dire vediamo poi i danni che sono successi in agricoltura per quanto riguarda gli olivi, per quanto riguarda la frutta, per quanto riguarda quelle cose. Io le posso dire che quest'anno non si è riuscito a mangiare un'albicocca nazionale prodotta da noi in maniera decente. Però detto questo, che voglio dire comunque incidono, il secondo è stato non quello dell'ultimo mese, ma nei mesi passati l'aumento del petrolio. E quindi, perché è inutile che ce lo stiamo a nascondere, è la logistica da noi che manca, perché se noi facciamo le arance in Sicilia e pretendiamo di vendere al solito prezzo che li vendono gli allevatori, i coltivatori della Sicilia a Milano, è una cosa utopica. Quindi anche qui c'è tutto da riprendere in mano. Da questo punto di vista io tendo a escludere che ci sia stato un aumento voluto delle cose, ma semplicemente perché ci sono scaricate delle cose che hanno portato a questo. Non c'è ombra di dubbio. Poi voglio dire, noi abbiamo, tanto per stare in tema, abbiamo firmato delle forme di collaborazione anche con la CIA, io personalmente le ho firmate con il loro presidente. Dove, quando si parla di prezzi, si parla di prodotti, si parla di chilometri zero, vengono in mente due cose. Uno sono i mercati all'ingrosso di bestiame, di frutta e verdura. la politica liberale che si è portata avanti con l'Europa è stata di toglierli, e qualcuno me ne potrà dare atto. Sì. La seconda sono i mercati, i macelli dove si incontrano e l'offerta della carne in questo caso e del contadino per i chilometri zero. E terzo, voglio dire, non è che qui stiamo parlando di una cosa in cui, è meglio ricordarlo bene, il 70%, ripeto, il 70% della vendita al minuto di generi alimentari in Italia è in mano a 6 supermercati, a 6 catene di supermercati. Sì, certo. Quindi, se vogliamo parlare delle pesche che vengono dal Marocco, ovvio, per l'amor di Dio, ecco, certo, se vogliamo parlare della nostra frutta e verdura è un, certo, altro discorso. È un altro discorso. Quindi ci rifacciamo al discorso della qualità che si faceva prima. Assolutamente. Quindi, ecco, noi non siamo qua per avere uno sconto, siamo qua per tutelare sia gli uni che gli altri, certo, se possibile. Come abbiamo detto prima, comunque la situazione, anche se con diverse sfumature, ci accomuna tutti. Voglio leggervi qualche sms. Io con 2.500 euro al mese, con un affitto di 750, arrivo sempre intorno al 20, massimo 25 del mese. 2.500 euro, scrive Walter, sono i vecchi 5 milioni che mi bastavano per 2 mesi. E poi ancora, e qui ci riallacciamo al discorso della frutta, della verdura comprata nei grandi supermercati oppure direttamente dal contadino oppure nelle frutterie. Ho notato che frutta e verdura nella grande distribuzione arrivano a costare il triplo che in buone frutterie a parità di qualità, e questo ce lo scrive Luca da Roma. E poi ancora, non per essere polemico, ci scrive Marco da Verona, ma dato che nonostante la crisi non vedo questo calo dei prezzi, consiglio di andare ad acquistare la frutta e verdura direttamente in campagna. A Verona le ciliegie al supermercato 10 euro al chilo, dal contadino 2 euro al chilo. Allora, qui vorrei richiamare in causa Pietro Giordano, perché a questo punto bisogna anche fare, come dire, un discorso proprio di abitudine, di dove andare a comprare, di cercare di essere un po' più scaltri, di unire l'utile al dilettevole. Sì, ormai i consumatori si stanno, l'hanno detto sia Cornacchia che, certo, Angelotti, che saluto anch'io, ormai i consumatori si stanno, come dire, attrezzando rispetto a consumi più responsabili. Lo stesso Matteo indicava la sobrietà come un modello che sempre più si afferma. Poi ci sono tutta una serie di, magari non nell'alimentare, ma ci sono nuovi strumenti. L'e-commerce ormai ha raggiunto, cioè aumenta con cifre doppie percentualmente ogni anno. In internet si comprano benissimo a sconti enormi abiti piuttosto che scarpe, piuttosto che attrezzatura per la casa, eccetera eccetera. Quindi c'è un ridimensionamento del consumismo che aveva caratterizzato, selvaggio io lo definisco, che aveva caratterizzato a suo tempo gli anni, diciamo, 80 e 90. Sì. Oggi invece siamo in presenza di acquisti più responsabili, quindi le persone, come diceva quell'ascoltatore che portava il carrello alla sua, sì, alla sua moglie, compagna, certo, hanno attenzione nel guardare i prezzi, nell'analizzare. Una volta si prendeva la merce e si metteva nel carrello. Un'ultima cosa: noi abbiamo un sistema distributivo, poi si può essere d'accordo o non d'accordo, è molto polverizzato e molto diffuso. Tutto questo comporta anche un'offerta molto ampia che però non riesce più a reggere. Difatti le aziende commerciali chiudono molto, ne chiudono tantissime, non riesce più a reggere questi nuovi usi alimentari che hanno i consumatori. E se si fa il calcolo su che, su, forse gli italiani non lo sanno, su 38 miliardi di crediti inesigibili, 38 miliardi di euro all'anno, sì, questa è la quantificazione, la metà riguarda utenze domestiche, si capisce benissimo come, cioè le persone non riescono, sì, a pagare la bolletta, la luce, del gas, cioè si capisce come questo cambiamento sia sempre più forte. Quindi le persone fanno i gruppi d'acquisto, le persone vanno a comprare in campagna, c'è un uso più responsabile del proprio denaro, che è la parte buona di tutta questa vicenda. Ma che sarebbe, certo, che sarebbe ancora più buona se, come dire, non fosse dettata dalla necessità più stringente, ecco, diciamo così, perché se fosse un cambiamento culturale che pian piano si fa strada nei consumatori, saremmo tutti più contenti. Invece ci sembra che questi minori sprechi, che per carità vanno assolutamente salutati con entusiasmo, siano dettati proprio dalla necessità più nera, che poi è quella di non arrivare alla fine del mese, ecco. E difatti non riescono ad arrivare alla fine del mese, e l'analisi che si faceva prima è un'analisi reale. Non esiste più quella che un tempo si definiva la classe media, tanto per essere chiari. Do un dato, le separazioni, anche se si è impiegati, e poi l'ascoltatore che diceva che con 2.500 euro, pari a 5 milioni di vecchie lire, sì, non riesce a come dire, affrontare il mese, perché c'è anche una situazione, non dico quell'ascoltatore, c'è, sì, una, certo, situazione ad esempio di separazioni molto forte, quindi anche, certo, le, certo, le poi ci sono che si, i casi specifici, assolutamente, qui non vogliamo poi entrare nel particolarismo, però sicuramente ci sono delle differenze da fare poi a seconda della tipologia del consumatore, che hanno sicuramente messo in crisi non solo quelli che hanno a disposizione un reddito proprio davvero basso, ma anche fasce leggermente più alte. Andrà dalla provincia di Ferrara, le do 20 secondi perché il tempo sta per esaurirsi, quindi la saluto. Buongiorno, benvenuto, ci okay. dica. Buongiorno, dunque io vado a fare spesa in campagna, roba genere, però non ti rilascio lo scontrino fiscale, come mai? Per forza che dopo i prezzi sono più bassi. Allora, qui devo chiamare in causa Giuseppe Cornacchia, perché qui l'ascoltatore ci dice che va in campagna ma poi non gli viene rilasciato lo scontrino fiscale, quindi facile fare il prezzo più basso. Che cosa diciamo, che cosa rispondiamo a questo ascoltatore? Che il regime fiscale dell'agricoltura è diverso, lui tiene il libro dei corrispettivi e quindi ha un regime fiscale diverso da quello degli esercenti normalmente, quindi questo è il motivo della differenza, non è perché evade le tasse, è un sistema fiscale diverso fra l'agricoltore e l'esercente. Quindi diciamo che non è che il contadino vuole fregare il consumatore, ma c'è un sistema diverso, e quindi diciamo non era quella non è questo il caso di come dire, esercenti che cercano di fregare i consumatori, anche se poi devo dire che Angelotti me lo confermerà che in questo momento, un po' per la crisi, un po' per la lotta all'evasione, diciamo così, si sono molto ristrette le aree in cui anche gli esercenti possono, o magari in passato l'hanno fatto, fare un po' i furbi. Ma guardi, anche da questo punto di vista qua io mi piace essere molto chiaro. Tutti quanti i commercianti hanno paura, assolutamente. Io credo che battere e far vedere ciò che veramente si è fatto sulla classica furbizia all'italiana, ma poi alla fine ha le gambe corte e non paga. Il discorso è un altro. Il discorso è che abbiamo più di 300 obblighi fiscali in un negozio normale. Al di là del fatturato che faccia, certo, 300 obblighi fiscali. Ora, se noi questi li trasferiamo pari pari in agricoltura, Cornacchia si riferiva al regime dei minimi, sì, e con lui posso essere d'accordo, però è chiaro che come dire, le due cose sono contrastanti, c'è dell'attrito, perché se uno ha più di 300 obblighi, l'altro non ne ha, certo, ne ha degli altri, ma ha anche delle sommissioni che io riconosco valide per assolutamente l'amore di Dio, perché... Io però la devo interrompere, devo salutare Giampaolo Angelotti, Giuseppe Cornacchia, Pietro Giordano per essere stati con noi, e comunque un ascoltatore ci scrive che invece a lui il contadino lo scontrino fiscale lo rilascia, e quindi come vedete le situazioni sono poi le più diverse. A tutti voi l'augurio di una buona giornata, ci risentiamo domani.